affascinante riceve tuo domicilio, Milano Interland. E chi sarà mai, si chiede il lettore, il cui occhio è caduto per caso su questo strano annuncio economico ben in mostra nella pagina locale di uno dei giornali della nostra città, chi sarà mai questa creatura che, per affascinante che sia, non si perita di ricevere qualcuno o qualcosa a casa sua del lettore? Il numero di telefono cellulare che completa il messaggio non gli dice niente, e lui al suo domicilio è solito ricevere soltanto la posta o al massimo qualche amico per una birra dopo cena, attività per cui non ha mai sentito il bisogno di mettere un annuncio sul giornale. Poi naturalmente l'occhio si sposta sulle inserzioni circonvicine, tutte più o meno dello stesso tenore, ancorché rubricate sotto il titolo varie, e il mistero almeno in parte si chiarisce. Ci sono due amiche giovani e belle che anche loro ricevono, al tal numero di telefono, un'autentica bellezza prosperosa mediterranea in attesa sul tal altro, una certa Claudia italiana che opera solo su appuntamento a Saronno, una giovane signora che con maggiore liberalità si dichiara contattabile tutti i giorni 11.00-19.30, domenica compresa, un certo numero civico di Viale Murillo, basta citofonare Sofia, e una allegra, affascinante, trasgressiva che offre emozionanti follie tutti i giorni dalle 11 alle 20 in Via Tonale. Per non dire di proposte più circostanziate, come quella che suona fisico mozzafiato, giovane raffinata, classe dolcezza, ambiente raffinato, segue numero di telefono, o quella della giovane ragazza spagnola appena arrivata, molto disponibile, aspetta tutti per piacevoli momenti di relax. Insomma, è evidente che in quel contesto il verbo ricevere è usato in senso affatto metaforico e che non si tratta neanche di una metafora particolarmente difficile da ridurre. Una delle testate storiche del giornalismo lombardo dedica una certa quantità di colonne, una e mezza, per un totale di 59 annunci nel numero che ho sott'occhio io, che è quello di giovedì 8 aprile, dedica un certo numero di colonne a far pubblicità alla prostituzione. Non ho avuto il coraggio di controllare la concorrenza, ma conoscendo la logica del mercato suppongo che anche sulle altre testate avvenga qualcosa di simile, magari in forma appena un po' più discreta. Vabbè. Per un vecchio moralista par mio la cosa può essere fastidiosa, ma forse non è il caso di scandalizzarsi più di tanto. La prostituzione è un fenomeno diffuso in una società come la nostra. Probabilmente va affrontata con le tecniche intese soprattutto alla riduzione del danno. Queste offerte giornalistiche che fanno riferimento a un'attività casalinga, discreta quindi e forse autogestita, probabilmente sono meno dannose sul piano sociale delle esibizioni che normalmente si praticano sul marciapiede, con il loro orrendo contorno di malavita, coltellate, sparatorie e simili. Non mancano in realtà persone rispettabili, compresi almeno due ministri della Repubblica, che si sono dichiarate favorevoli in quanto male minore alla prostituzione domestica. La legge attualmente prevede la punibilità di chi sfrutta o favorisce la prostituzione altrui, e non c'è dubbio che pubblicare questi annunci rappresenti se non uno sfruttamento, forse sì, certo un favoreggiamento, ma se lo si fa in nome di un possibile vantaggio sociale si può anche invocare e concedere una certa tolleranza. In teoria. Peccato che lo stesso giornale che pubblica quei 59 annunci lo stesso giorno dedichi un'intera pagina a un'inchiesta sull'emergenza prostituzione nella nostra città e non utilizzi neanche una volta questo argomento. Eppure in quella pagina il problema è affrontato da moltissimi punti di vista. Sotto il titolo principale, a piena pagina, torna in carcere l'amica dei VIP, si notano un taglio centrale a quattro colonne, sul marciapiede quindicenne incinta di 4 mesi, un taglio basso a 6, strade a luci rosse non ne possiamo più, 3 box di varia dimensione, gli uomini vogliono solo darmi una mano, quelle bambine schiave e gli alberghetti nascondono camere a ore. Il tono, come tipico di quel giornale, che ha dato a lungo voce alle posizioni della sinistra sociale democristiana e adesso non nasconde le sue simpatie leghiste e poliste, il tono è molto violento, molto scandalizzato, molto preoccupato. Si intervistano cittadini indignati, quelli che non ne possono più appunto, si descrive la triste situazione di Viale Melchiorre Gioia di Piazza Spromonte, si pubblicano le solite foto di adescamenti notturni e di poliziotti in atto di esibire agende sequestrate ed altri corpi del reato, ma non si dedica una sola riga agli annunci sui giornali. agli autori dell'inchiesta, al loro caposervizio, al direttore e all'editore del loro giornale, non sembra sia neppure passata per l'anticamera del cervello l'idea che l'amica dei VIP del loro titolo principale, che è una giovane brasiliana che in quanto servita organizzatrice di un giro di squillo frequentato da cittadini eminenti è stata associata alle carceri su richiesta del PM Tal d'Italia e del GIP dall'altro, viene accusata in ultima analisi di reati che potrebbero benissimo essere imputati a loro. E in fondo perché dovrebbero? È vero che la prostituzione sarà anche un fenomeno ad alta diffusione sociale, ma è altrettanto vero che viene considerata reato soltanto per certe categorie di persone. I soldi notoriamente non hanno odore, ma le persone in un certo senso sì. Non si può paragonare un'immigrata brasiliana qualsiasi con l'amministratore di un giornale importante, anche se entrambi, a dire il vero, quella tale attività la favoreggiano, sì, e chi la favoreggia a mezzo stampa presumibilmente ne diffonde gli effetti su scala molto maggiore, ma naturalmente costui ha sempre il vantaggio di poter deplorare a pagina 33 quello che pubblicizza a pagina 42. Sono solo 9 fogli di carta, ma bastano per costruirci sopra la propria indiscussa rispettabilità.